Domani, 14 febbraio, è il giorno di San Valentino. Lo dedichiamo ai tifosi dell'Inter, che devono essere veramente innamorati per sopportarla.